Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, ben ritrovati. Anche quest'oggi Nessun Luogo sarà lontano con me, con Mire Lucchetti, Isotta Scenna in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. E Nessun Luogo Lontano lo sarà anche grazie a voi. Se volete intervenire via SMS al 349-238-6666, potete seguirmi su Twitter Nessun Luogo 24 oppure sul mio personale Giampaz. E infine la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Quest'oggi vi faccio fare un bel po' di chilometri, vi porto in Africa e vi porto in particolare in Nigeria, nord-est del paese. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-qail. Inna Allaha yudafi'u 'anilladhina amanu. E chissà se questo messaggio video postato su YouTube di Abu Shekau è l'ultima volta in cui si sente la sua voce tuonare contro gli obiettivi cristiani in Nigeria e contro le forze di sicurezza nigeriane. Perché? Perché il leader di Boko Haram, questa formazione estremista che opera nel nord-est della Nigeria, ma che in passato ha colpito anche la capitale Abuja, sarebbe morto. E usare il condizionale è d'obbligo, perché in un comunicato di 2 giorni fa delle forze di sicurezza nigeriane si legge testualmente: è molto probabile che Shekau sia morto tra il 25 luglio e il 3 agosto durante una sparatoria nella foresta di Sambisa, una sparatoria tra appunto Boko Haram e le forze di sicurezza che da maggio del 2013 conducono vaste operazioni in quei vastissimi territori. Secondo fonti di sicurezza nigeriane, il corpo del leader ferito sarebbe stato trasportato in Camerun per essere curato e poi lì sarebbe deceduto. E poi il giorno dopo l'esercito aveva anche annunciato di aver ucciso il numero 2 del gruppo, Mahmoud Obama, nei primi giorni di agosto. Chissà se la presunta fine del leader di Boko Haram, una delle formazioni armate più pericolose di tutta l'Africa, segnerà la fine o l'inizio della fine di questo movimento, ma soprattutto chi è Boko Haram, come opera negli ultimi anni, come si è mosso. Ascoltiamo innanzitutto una prima fotografia di questo movimento. Da luglio 2009 il governo nigeriano sta conducendo una difficile lotta contro il movimento di Boko Haram, setta religiosa di matrice fondamentalista islamica che vorrebbe l'istituzione della Sharia in tutta la Nigeria. Fondato nel 2002, il gruppo si definisce antioccidentale e opera soprattutto nel nord del paese con atti di terrorismo, l'ultimo dei quali risale al 13 agosto, quando alcuni miliziani hanno aperto il fuoco sui fedeli riuniti in preghiera nelle moschee dei villaggi di Konduga e Ngoma. Il gruppo islamico Boko Haram ha una lunga storia in Nigeria, fatta di estremismo religioso, forte senso di rivalsa sociale, collegamenti internazionali e un'incredibile escalation militare. Ma è dall'estate del 2011 che sembra aver messo la quinta, dimostrando con forza le proprie capacità logistiche e militari. La guerra libica, l'apertura degli arsenali di Gheddafi e i contatti con Al-Qaeda, nel Maghreb, potrebbero aver giocato un ruolo determinante. Con l'attentato alla sede ONU della capitale nell'agosto 2011, Boko Haram ha fatto un salto di qualità su 2 fronti. Quello geografico, spostando la front line del conflitto nel cuore del paese e non limitandola al solo nord, e quello politico, colpendo un'istituzione internazionale, ottenendo così una visibilità mediatica senza precedenti. Dal maggio 2013 è in vigore lo stato di emergenza in 3 stati del nord-est e i tentativi di dialogo sono sostanzialmente fermi. Questa è la fotografia di Boko Haram, che peraltro ha toccato anche le cronache italiane in 2 tragici episodi per il rapimento e poi la morte di due ingegneri nel nord della Nigeria. In realtà il rapimento è avvenuto da parte di una costola del movimento Ansaru, entrambi finiti male, uno nel caso dell'ingegnere Lamolinara per quel disgraziato blitz delle teste di cuoio nigeriane e inglesi insieme, fra l'altro la Farnesina poi era stata avvisata soltanto inizio blitz. Insomma, tutto questo per dire che spesso tematiche, movimenti apparentemente lontani ci toccano, e come, anche da vicino. Sono tanti i nigeriani, scusate, gli italiani che lavorano in quel paese, sono tanti anche gli interessi italiani. Per questo oggi cerchiamo di radiografare Boko Haram, questa minaccia estremista, e cercheremo anche di capire quanto sia provinciale, locale, o quanto invece aspiri a un jihad più internazionale. Ma questa radiografia ha innanzitutto i contorni del mistero, del giallo, perché non si capisce davvero se Shekau sia morto o meno. Abbiamo raggiunto Sheu Sani, che è uno scrittore nigeriano, un attivista, ha scritto parecchi volumi e segue molto da vicino la questione Boko Haram, essendo stato fra i primi a promuovere il dialogo con gli estremisti. L'abbiamo raggiunto ieri pomeriggio. A lui ho chiesto innanzitutto un primo commento sulla presunta morte di Abu Shekau. Well, first of all, the statement credited to the Nigerian army or the joint task force. Prima di tutto, dice il dottor Sani, le affermazioni dell'esercito e della task force nigeriana, una task force speciale che da anni opera nel nord, non sono credibili. Sono affermazioni fondate sulla probabilità. Se davvero il leader di Boko Haram fosse stato ucciso, lo direbbe il portavoce del gruppo terroristico e verrebbe nominato immediatamente un nuovo capo. Questi rumors, spiega Sheu Sani, e così ci apre anche uno squarcio, no, su come si muove anche l'informazione in Nigeria e come si muovono i servizi segreti nigeriani. Questi rumors sono solo una strategia per capire se Abubakar Shekau è ancora vivo. Se infatti ora parla, hanno la certezza che è vivo, ovviamente. Se tutto tace, possono essere sicuri che è morto. Però dice, in realtà non lo sono nemmeno loro sicuri di quello che stanno dicendo. Prima di iniziare ad affermare che sia davvero morto, è meglio prima vederne il cadavere. Finché il corpo di quest'uomo non viene esposto davanti alla nazione, davanti ai giornalisti, nessuno potrà prendere seriamente in considerazione queste affermazioni. Nobody will take that statement serious. Cosa che fra l'altro era accaduta quando nel 2009 era stato ucciso in una vera e propria esecuzione extragiudiziaria l'altro leader, Mohamed Yusuf. Fra l'altro ci sono anche video su YouTube, i nigeriani dissero era morto in un tentativo di fuga, le immagini mostrano il corpo a terra con ancora le manette ai polsi, quindi evidentemente è difficile ipotizzare appunto un tentativo di fuga in quel caso. Allora do il mio buongiorno, il mio ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano ad Alessio Fabiano della Cattolica di Brescia, esperto di storia dell'Africa contemporanea. Fabiano, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a voi. Allora, un primo sintetico commento su la presunta morte di Shekau. Sei d'accordo con Sheu Sani? Prima di, insomma, di dire che è morto bisogna avere delle prove tangibili, ovviamente. Sì, certamente. È molto difficile capire se effettivamente questa notizia sia veritiera oppure no. E se è veritiera, questo può avere un'influenza, un impatto, diciamo, su Boko Haram stesso. Infatti la perdita di un leader all'interno di un gruppo insurrezionale può essere vista sia come sia in una matrice, diciamo, prettamente interna, e quindi in una sorta di rimescolamento delle forze interne di Boko Haram, e nel caso di questo movimento nigeriano tra un'ala più radicale che era guidata appunto da Shekau, un'ala invece più moderata e quindi più prona, diciamo, al dialogo con il governo. E poi un impatto invece sulle relazioni tra Boko Haram e il governo nigeriano. Anche qui la possibilità, o meglio la possibile morte di Shekau potrebbe determinare anche un avvicinamento delle due fazioni, quindi di Boko Haram e del governo, nel caso in cui prevalesse la fazione prona al dialogo. Sì, fra l'altro dobbiamo aggiungere e ricordare che per il momento il dialogo è evaporato. Vi sono stati parecchi tentativi, si è parlato anche di amnistia, ma Boko Haram ha sempre rifiutato questa strada, perché il suo obiettivo di imporre la sharia in tutto il paese e questo obiettivo di criminalizzazione dei cristiani è lì sempre vivo e presente. Per capire però meglio in che contesto ci stiamo muovendo, in quale paese, Alessio Fabiano, aiutami a fotografare molto sinteticamente la Nigeria questa volta, il paese più popoloso dell'Africa, con tassi di crescita elevatissimi ma una grandissima disparità fra quel nord in cui opera Boko Haram e il sud, un nord a maggioranza musulmana, un sud a maggioranza cristiana. Che paese è la Nigeria? Forse è un paese che viaggia con due marce inserite a nord e sud? Sì, possiamo vederlo più o meno così, effettivamente. Si tratta di un paese dalle forti contraddizioni economiche che hanno delle ripercussioni di tipo sociale. Esiste un nord che è prevalentemente dal punto di vista economico più povero, quindi dedito a delle attività che portano meno capitali e che nello stesso tempo attraggono meno capitali, e un sud invece che trae benefici a livello generale, anche se molto spesso non a livello locale, da grandi investimenti delle majors petrolifere e gasifere. Questa dicotomia tra nord e sud si riflette poi anche in una dicotomia di tipo religioso, per cui il nord è ampiamente dominato dai musulmani e al contrario il sud appare dominato invece dai cristiani. Ecco, quindi, ti interrompo Alessio, perdonami, ma su questa dicotomia si fonda gran parte della propaganda e anche della fase di reclutamento, no? di Boko Haram, che parla molto spesso a giovani senza lavoro, a giovani disoccupati, a giovani senza speranza per il futuro, in un territorio un po' dimenticato, per dirlo eufemisticamente, dalla capitale Abuja. Stiamo sul tema economico, ascoltiamo insieme l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Boko Haram, la formazione estremista che minaccia l'intera Nigeria, al centro della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, cari ascoltatori. Perché? Perché due giorni fa le forze di sicurezza nigeriane hanno annunciato che probabilmente il suo leader Shekau è morto dopo un conflitto a fuoco, sarebbe stato trasportato in Camerun morente per cercare cure e lì sarebbe morto. Chissà se è uno dei colpi definitivi da parte delle forze di sicurezza nigeriane a una minaccia che rischia di destabilizzare l'intero paese e che ha reso alcuni stati nel nord-est davvero pericolosi. Siamo con Alessio Fabiano della Cattolica di Brescia, e però voglio riproporvi la chiacchierata che ho fatto con Shehu Sani, che è uno scrittore nigeriano, lui che è stato tra i primi promotori del dialogo con Boko Haram. Bisogna ricordare che, e poi sono stime perché è difficile verificare quanti morti in realtà abbiano fatto, dal 2009 vi sarebbero stati almeno 2000 uccisioni da parte di questa formazione estremista. Vi dicevo del dialogo tentato dal governo nigeriano di Goodluck Jonathan. Shehu Sani è stato uno dei primi promotori, appunto. Lui ho chiesto se questo dialogo è ancora possibile nonostante le forze di sicurezza stiano usando la mano pesante lì nel nord-est. Well, first of all, I was the first person that initiated, that muted the idea of dialogue with the group, and in all the efforts which I've made in the past was frustrated by the government. E appunto Shehu Sani ricorda di essere stato il primo a lanciare l'idea di instaurare un dialogo con i gruppi, però dice tutti gli sforzi fatti per il dialogo sono stati frustrati dal governo. Quando poi Boko Haram ha accettato la via diplomatica, il governo ha istituito una commissione ad hoc, includeva il mio nome, ma io ho declinato l'invito del presidente. L'ho rifiutato, dice, perché non vedo serietà da parte del governo in questo dossier. Questa guerra va avanti ormai da 4 anni, ricorda Shehu Sani. I contractor e i loro amici businessmen stanno guadagnando un sacco di soldi. Le risorse del paese sono state sacrificate in nome della sicurezza. Sta diventando tutto un business. Quindi, dice Sheusani, il dialogo è stato chiuso, prima di tutto perché il gruppo ha rifiutato sia l'amnistia sia qualsiasi impulso politico che partisse dal governo e ha lasciato chiaramente intendere che non ha la minima intenzione di cessare le violenze. A giudicare dall'atmosfera che si respira ora, direi che nessuno dei ribelli è ancora pronto per parlare con il governo. Alessio Fabiano, io dopo l'attentato del 2011, quello alla sede ONU che fece tanti morti e tanto scalpore perché era forse il primo obiettivo internazionale, no? Una grande vetrina, una grande tragica ribalta per Boko Haram, beh, scrissi che Boko Haram stava alzando il tiro e che forse si preparava a un jihad più internazionale sul modello di Al-Qaeda, no? della casa madre. Poi in realtà questo apparentemente fino adesso, insomma lo speriamo, non è avvenuto. Significa che Boko Haram rimane confinata nel grande paese africano e la sua lotta rimane, per così dire, locale e provinciale? Beh, sicuramente possiamo dire che per il momento rimane appunto locale, provinciale, soprattutto limitata ai territori del nord-est del paese, in particolare gli stati di Borno, Yobe e Adamawa, ma anche Bauchi e Jigawawa. Comunque, quello che bisogna sottolineare è che se dopo quell'attentato alla sede dell'ONU effettivamente esisteva una lettura da parte anche di diversi analisti per cui Boko Haram aveva tentato un salto, diciamo, di qualità di tipo militare, comunque altri avevano messo in rilievo il fatto che questo non significava effettivamente passare ad un livello superiore di attacco, anche perché, come poi effettivamente è successo, c'è stata la reazione del governo nigeriano, sottoposto a forti pressioni da parte della comunità internazionale, compresa anche l'Unione Europea, affinché si ponesse un argine a questo movimento terroristico. Un punto analitico che comunque ad oggi noi possiamo mettere nel rilievo, se prendiamo come veritiera la morte di Shekau, è che anche qui si crea una ritrattazione delle eventuali relazioni, comunque non chiare e non definitive, tra Boko Haram e Al-Qaeda nel Maghreb, che sarebbe poi, diciamo, il punto di riferimento in tutta l'Africa dei gruppi terroristici che operano nei paesi africani per il jihad islamico. È importante nello stesso tempo sottolineare che se veramente esiste una relazione tra Al-Qaeda nel Maghreb e Boko Haram, questa relazione con la morte o la possibile morte di Shekau potrebbe subire un cambiamento, nel senso che Boko Haram potrebbe ammorbidire, quindi allontanarsi da AQMI, da Al-Qaeda nel Maghreb, oppure nello stesso tempo potrebbe avvicinarsi ancora di più nel caso in cui prevalesse appunto quella fazione di cui dicevo prima, di tipo radicale. E questo è lo scenario, il secondo che tratteggiavi, che forse più preoccupa gli analisti, gli osservatori, ma non solo, anche i tantissimi europei e americani che lavorano in quella zona. Dobbiamo considerare che dal nord-est della Nigeria poi c'è tutta quella zona in cui opera Al-Qaeda nel Maghreb islamico, confini molto porosi, traffico di armi e non solo. Sì, scusa se ti interrompo, certo. Un attimo, non è un caso che Boko Haram si trovi proprio posizionato in quella parte del certo. paese. Stiamo parlando del nord-est, che dal punto di vista economico è particolarmente povero, ma dal punto di vista geopolitico confina con il Camerun, e quindi non è un caso che infatti Shekau sia stato poi trasferito in Camerun per eventuali cure. Quindi ha un'importanza anche il fatto che Boko Haram possa trovare una sorta di via di fuga in altri paesi il cui territorio è poco securizzato. Grazie Alessio Fabiano per le tue osservazioni, le tue analisi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, abbiamo citato più volte quella che è l'operazione militare in corso da parte dell'esercito nigeriano, e allora io ho chiesto a Sheusani quanto la repressione dell'esercito nel nord stia funzionando. Well, what we need to understand, first of all, the state of emergency is not something that will be there forever. Innanzitutto Sheusani ricorda che c'è uno stato di emergenza che dura dal maggio del 2013, lui dice non può durare per sempre secondo la Costituzione nigeriana, solo 6 mesi. Dopo questo periodo può essere rinnovato o cancellato. Quello che possiamo constatare tutti è che la violenza sta continuando. Però dice è difficile verificare le notizie che arrivano da quelle zone perché l'area è tagliata fuori dal resto della nazione e le comunicazioni che arrivano da questa regione passano attraverso la censura dei partiti di maggioranza. E dice inoltre abbastanza lampante che l'esercito stia nascondendo il vero numero di soldati morti. And it is very clear also that the military have been hiding their own casualty figures. And many things that are happening, nobody will believe it until. E conclude Sheusani dicendo tutte le informazioni che arrivano dalla regione non sono credibili finché non sono confermate dai giornalisti che possono avere accesso alla zona in questione. Per tutte queste ragioni, tutti i possibili successi proclamati dall'esercito sono in realtà molto sospetti. Perché lo avete capito, è in corso anche una guerra, come spesso accade quando vi sono conflitti, una guerra anche sulle cifre, sull'informazione, si chiama propaganda. E l'esercito nigeriano non è certo un esercito che ci va con la mano leggera quando compie le sue operazioni. Parecchie organizzazioni hanno sottolineato, hanno puntato il dito contro operazioni, come dire, condotte appunto con la mano troppo pesante e con incarcerazione non solo di semplici sospetti. Allora, parlavamo con Fabiano della strategia di Boko Haram, no? Se dopo il 2011 con quell'attentato, perché ricorderete, alla sede ONU di Abuja, avesse messo la quinta anche per una ribalta internazionale. E allora ho solleticato su questo tema sempre Sheusani. Well, there is no difference between the ideology of Boko Haram and those of the Taliban and other Al-Qaeda groups. Sheusani dice non c'è differenza tra l'ideologia di Boko Haram e quella dei talebani o degli altri gruppi legati ad Al-Qaeda. Hanno tutti la stessa concezione di Islam e di società islamica regolata dalla Sharia, da raggiungere però con atti di violenza. Quello che accade nel nord-est del paese accade anche nel sud-ovest del Pakistan. Civili uccisi, scuole bruciate, sparatori su studenti, diffusione di idee violente, attacchi a persone critiche verso le loro idee e metodi, e hanno lo stesso modo di agire. Credo, conclude Sani, e qui è pessimista, credo per questo che Boko Haram cerchi di travalicare i confini della Nigeria, soprattutto a nord. Ecco cosa sta accadendo in questo momento. L'ultimo punto fondamentale, l'ultima domanda chiave è capire quanto supporto popolare può avere una formazione di questo tipo, ed è la domanda che ho rivolto a Sheusani. In the northern part of Nigeria there are many Islamic sects that advocate and propagate for an Islamic society. E Sani dice nella parte nord del paese vi sono molte sette islamiche che promuovono l'idea di uno stato islamico in cui viga e in cui vige la legge islamica. Tutte queste sette vorrebbero una Nigeria musulmana, interamente musulmana, ma la differenza di Boko Haram è che questa setta ha deciso di imbracciare le armi e perseguire questa ideologia con la violenza. Ecco, dice, dove sta la differenza. Boko Haram, continua Sheusani, non è popolare, non l'è mai stato. Stanno semplicemente perseguendo i loro obiettivi. Il loro supporto, è qui il punto chiave, deriva dalle condizioni economiche del paese. La povertà e la decadenza hanno determinato la nascita di Boko Haram. C'è molto risentimento, spiega l'intellettuale nigeriano, verso il potere politico secolarizzato. C'è un distaccamento tra la popolazione e il governo. E tutto ciò è terreno fertile per Boko Haram per reclutare persone. Un altro fattore, dice, che li rende popolari è il modo in cui le forze di sicurezza nigeriane stanno gestendo la situazione. Uccidono innocenti nel nome della lotta contro Boko Haram. Un altro fattore, dice, di enorme importanza è che questo regime di ruberia e corruzione che imperversa nel governo ha cambiato la Nigeria. E tutti questi fattori aumentano il fascino di Boko Haram per tutti coloro che si riconoscono in questa ideologia. And all these contributing to other factors have made the group appealing to those who subscribe to its own ideology of borders. Questo è lo stato dell'arte di Boko Haram e del nord-est della Nigeria. Chissà se è vera la morte di Shekau, chissà se la decapitazione di questa piovra che tenta di allungare i suoi tentacoli non solo su Abuja ma anche su altri paesi africani avrà una volta per tutte eliminato la minaccia. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, buonasera a chi segue invece la replica serale. Una puntata tutta africana quella di quest'oggi. Adesso che voltiamo pagina vi porto da Abuja, da Kano, da Maiduguri, dove eravamo prima, a Nairobi. Since his inauguration into office in April this year, President Uhuru Kenyatta has been all too clear about his diplomatic priorities, with a focus on countries that traditionally haven't related closely with Kenya for either trade or donor funding. Anche se in realtà dovrei dire andiamo a Pechino, perché il presidente keniano Kenyatta questa settimana sta facendo un tour, una visita appunto in Cina. E la notizia qual è? È insomma la firma di un accordo miliardario per progetti riguardanti energia, infrastrutture, trasporti e la salvaguardia dell'ambiente. L'accordo è stato siglato appunto da Uhuru Kenyatta e Xi Jinping, è stato siglato a Pechino e adesso cercheremo di capire meglio quanto questo stia ridisegnando la presenza cinese nell'importantissimo paese africano. We as a nation and a government have laid sound plans to guarantee the success of our march to prosperity and international competitiveness. Ben 5 miliardi di dollari, pensate, 5 miliardi di dollari che non vanno in un paese a caso con un presidente a caso, vanno nelle mani simbolicamente di un presidente che il 12 novembre, se non vado errato, dovrebbe recarsi all'Aia perché è incriminato dalla Corte Penale Internazionale per aver provocato le violenze post-elettorali del 2007 che tanti morti fecero. E allora questa Cina, che al contrario dell'Europa, dell'Unione Europea, che disse prima delle sue elezioni, beh, se dovesse essere eletto questo presidente che deve rispondere di questi crimini contro l'umanità, noi le nostre relazioni le faremo con il contagocce. E invece, pensate un po', la Cina, così spregiudicata e così in omaggio alla Realpolitik, sigla questo accordo da 5 miliardi e va a costruire, fra l'altro, una ferrovia lunghissima che promette di stravolgere il paese. In realtà il paese, i cinesi lo hanno già stravolto. Vediamo in che termini. Andiamo a Nairobi in diretta, dove c'è Jacopo Rovarini, che è capo progetto di World Friends. Jacopo, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti. Allora, in questa puntata, in questa pagina cinese e africana di Nessun Luogo Lontano, cerchiamo di fotografare, in realtà lo facciamo spesso, la presenza cinese, il colosso asiatico nel continente africano, che tante polemiche, tanti analisti scomoda sulla sedia perché si dice neocolonialismo, insomma, eccetera, eccetera. Però stiamo sul concreto, perché tu, fra l'altro da un bel po' vivi a Nairobi e mi raccontavi quando ci siamo sentiti che la presenza cinese ha cambiato anche la tua quotidianità, perché tu quando ti svegli e vai in ufficio fai altre strade adesso, no? Esatto, proprio la superstrada che porta al mio ufficio è stata di recente inaugurata dal precedente presidente Kibaki ed è stata realizzata da compagnie cinesi. Allora, la presenza cinese, adesso poi vi darò alcuni numeri per darvi proprio la dimensione di quanto Pechino si impegni nel continente africano. Prima però con Jacopo Rovarini, che fra l'altro sentimmo proprio alla vigilia delle elezioni in Kenya, perché lo ricorderete, il timore era di rivedere le stesse violenze che si ebbero cinque anni prima. Aiutaci a fare un bilancio di questi primi mesi di Kenyatta alla presidenza, sinteticamente qualche pro e qualche contro, come sta governando? Allora, nei primi giorni di governo la coalizione appunto guidata da Kenyatta ha avuto diverse difficoltà, innanzitutto a creare il governo, quindi ad assegnare vari ministeri, dopodiché ha dovuto affrontare vari movimenti, episodi di sciopero, proprio perché le aspettative da parte dei keniani erano alte. Ad esempio la categoria degli insegnanti chiedeva a gran voce un aumento dei salari, eccetera. Nel frattempo i vari ministeri, il governo stesso, ha dovuto affrontare una difficile situazione di approvazione del nuovo bilancio, e infine questo processo di devolution, quindi di decentramento, che vede una spartizione dei poteri a livello locale, altro processo abbastanza delicato. Le cose più concrete che sono viste fino adesso sono alcune azioni spot in risposta ad alcune promesse elettorali della coalizione al governo, ad esempio l'assistenza sanitaria gratuita per le donne in gravidanza, piuttosto che la distribuzione di piccoli PC per tutti i nuovi studenti alle scuole elementari. Ecco, il bilancio è ancora in divenire, diciamo. Ecco, certo, poi ci vorrà ovviamente tempo per tracciarne uno definitivo. Accennavo a questa spada di Damocle della Corte Penale Internazionale su Kenyatta. Quanto se ne parla a Nairobi? Perché ricordo che quando c'era la corsa elettorale, la campagna elettorale, era un tema che veniva utilizzato, veniva sbandierato. E adesso? Una sua valenza, diciamo, primaria, proprio durante la campagna elettorale, che veniva utilizzata in particolare dai detrattori del duo Kenyatta-Ruto. Ora la stampa, le principali testate keniane appaiono abbastanza filogovernative, quindi questo argomento passa abbastanza sotto silenzio. Arrivano degli aggiornamenti riguardo alle procedure in corso, ma sono solitamente minimi e occupano veramente poco spazio sui giornali. Allora, questo è il quadro che ci arriva da Nairobi. Vi stavo accennando prima che volevo darvi alcuni numeri su quella che è la presenza cinese in Africa, ma soprattutto in Kenya. Una cosa è certa, i rapporti economici tra il colosso asiatico e l'intero continente africano stanno crescendo a ritmo vertiginoso. Nel 2012 il giro d'affari ha raggiunto i 198 miliardi e mezzo di dollari, mentre quello tra gli Stati Uniti e il continente nero non ha superato i 110 miliardi. Standard Chartered valuta che l'import-export sino-africano potrebbe arrivare a 385 miliardi entro il 2015 se continuasse a crescere al ritmo odierno. Ma è soprattutto in Kenya, il paese di cui ci stiamo occupando in questa terza pagina di Nessun Luogo Lontano, che la Cina ha avuto un ruolo chiave. Spicca nel settore manifatturiero, farmaceutico, tecnologico, energetico, ma soprattutto nella costruzione di infrastrutture locali. Va ricordato che questa nuova gigantesca ferrovia che vogliono costruire praticamente attraverserà tutto il paese dall'interno fino alla costa, fino al porto, al nevralgico porto di Mombasa, uno dei più grandi dell'intera zona. Poi la chicca, perché quando la Cina si muove, insomma, lo fa con grande intelligenza, è anche un intero progetto di salvaguardia dell'ambiente, in particolare contro il bracconaggio. Gli elefanti, lo sapete, vengono cacciati per l'avorio, peraltro mercato assai fiorente, quello illegale, in Cina. Quindi capite anche l'astuzia, no? Strategica dal punto di vista economico del colosso cinese. Poi basta girare per il Kenya per trovare altre infrastrutture costruite dai cinesi: l'aeroporto internazionale Kenyatta, l'autostrada Nairobi-Tika, il porto di Lamu, eccetera, eccetera, eccetera. E torniamo a Nairobi con Jacopo Rovarini. L'ultima domanda è questa, Jacopo: in generale, dal tuo punto di vista, è vero che la capitale non riassume quelle che sono le dinamiche dell'intero paese, ma come i keniani valutano e percepiscono la presenza cinese? Allora, la maggioranza dei keniani apprezza le nuove infrastrutture, proprio in termini pratici, le nuove superstrade o le nuove bretelle che vengono costruite hanno semplificato di molto la vita a molti pendolari. Chi magari si interessa un po' più profondamente a queste tematiche riserva un certo timore nei confronti di questa presenza significativa della potenza cinese, proprio perché non è chiaro quali siano tensioni e gli equilibri tra il governo keniano e il governo cinese, cosa la Cina si aspetti in cambio. Una cosa che lega sicuramente i due paesi, e non è di poco conto, perché ve lo dico? Perché il Kenya è impegnato poi su quel fronte somalo, perché si è impegnato nel sud di quel paese in preda alla guerra civile ormai da così tanto tempo. Ebbene, sono le forniture di armi, ad esempio, che i cinesi forniscono, non solo mezzi, ma appunto armi e munizioni. E fra l'altro anche alcuni ufficiali svolgono dei periodi di addestramento particolare proprio in Cina. L'ultimissima domanda al volo, proprio per stare su questo rapporto tra cinesi e africani, tra cinesi e keniani. Io quando ho visto comunità cinesi nei paesi africani che ho visitato, ho sempre trovato una grandissima chiusura, nel senso che ricreano delle piccole Chinatown, stanno fra di loro, la socialità è sempre fra di loro, difficilmente si mescolano alla popolazione locale. Lì a Nairobi cosa vedi? Qualche segnale di, come dire, di integrazione, o comunque arrivano, fanno affari e se ne vanno? Guarda, principalmente direi che il modello si replica anche in Kenya. Non esistono quartieri così definiti Chinatown, ma gli spazi di socialità della comunità cinese rimangono abbastanza segregati dal resto degli, appunto, degli spazi pubblici, e non vi è questa significativa integrazione appunto tra i numerosissimi ormai immigrati cinesi e i keniani. Grazie Jacopo Rovarini per queste tue istantanee da Nairobi. Lo ripeto, Nairobi non è tutto il Kenya evidentemente, però rimane pur sempre un grande centro finanziario, un grande centro economico e osservatorio privilegiato per chi vive lì e chi indaga le dinamiche nel paese. Grazie Jacopo Rovarini, capo progetto di World Friends. Buona giornata, buon lavoro. Ho tempo per i saluti, sì. Però stavolta li posso fare con calma, perché ho ben 50 secondi a partire da adesso. Allora saluto e ringrazio Miriam Lucchetti, Isotta Scenna, che hanno confezionato e scritto con me questa puntata, Gianmarco Ferronato, che ha messo le musiche giuste per questo racconto, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domani, ore 13:15, quando ancora nessun luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Giampaolo Musumeci.